fatto, perdono per ogni carezza di meno, perdono per ogni parola che ha fatto vestire di lacrime il tuo viso che amo. Perdono per non saperti offrire che un poco di amore rimasto in fondo al cassetto. Perdono di amarti così senza darti di più della vita, di più dell'amore. Perdono più di tutto per essere sicura di non avere niente, di non avere niente, di non di tutto per essere sicura di non avere niente, di non avere niente, di non avere niente.